perché altrimenti ci arrabbiamo. Candido, chiamo Silvio e me candido. Italia, ma dai, ancora. E dopo mille altre persone, va Spencer il campione alla televisione, si incontra Berlusconi, finisce all'elezione, sto mondo è una monnezza marrone. Ricordi di me? Era Bud Spencer. Era Bud Spencer. Ti spacco il basso. Tiro un cazzo di sacco di botte. Aia, aia, ma che cazzo fai, Bud? Mi prendi a sberle? Ma che sei? Fascista? La Spencer nuota nella piscina d'acqua, poi si vuota e riemerge. Me lo ricordo, anche gli angeli mangiano fagioli. Io spocco gli ippopotami, vado con Berlusconi. Me lo ricordo, anche gli angeli mangiano fagioli. Io sto con gli ippopotami, vado con Berlusconi. Nel suo primo film, Terence Hill faceva Onion, il cattivo che andava contro lo sceriffo, ma Bud Shake ce la fa. On.